Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, il sommario di oggi prevede che si parli di informazione in diretta, di cosa succede dentro e fuori lo schermo, di etica delle pellicce, dei rapporti tra partiti e videotel e, se per caso ci resta un po' di tempo, di pannolini.